ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Il feto è capace di difendersi dal Covid, quanto suggerisce uno studio dell'Università di Milano pubblicato su Nature Communication, che commentiamo con la coordinatrice, la professoressa Valeria Savasi, professore di ginecologia ostetricia all'Università di Milano. Il nostro studio, che è stato pubblicato nei giorni scorsi, effettivamente dimostra, tra le varie cose, che il feto in utero è capace di difendersi dalle infezioni da SARS-CoV-2. Quindi anche se venisse a contatto con il virus durante la gravidanza, è in grado di produrre degli anticorpi specifici che lo difendono. Ma non solo, abbiamo trovato questi anticorpi, in questo caso materni, anche nel latte, e questo significa sostanzialmente che le donne in gravidanza, questo è il messaggio che voglio dare, anche se infette da SARS-CoV-2, possono allattare, ovviamente con l'utilizzo della mascherina e con le precauzioni che vengono date loro dopo il parto, ma l'allattamento è assolutamente possibile e anche indispensabile per il benessere del proprio bambino. Uno studio pilota del laboratorio COVID dell'Istituto Europeo di Oncologia, pubblicato sul Journal of Clinical Medicine, suggerisce che nei pazienti meno gravi gli anticorpi anti-COVID si dimezzano entro un mese dalla guarigione. A Obiettivo Salute il commento della dottoressa Federica Facciotti, immunologa dell'OIEO e coordinatrice dello studio. Sì, questo studio fa parte di uno studio più ampio che stiamo svolgendo in IEO sul monitoraggio del personale sanitario, e dimostra effettivamente che i pazienti che hanno avuto la malattia meno grave hanno un dimezzamento degli anticorpi a un mese dalla loro guarigione. Questo ha delle importanti implicazioni. Prima di tutto vuole mettere in guardia le persone, anche chi si è ammalato, comunque di mantenere lo stesso alta la guardia e di non diminuire il distanziamento sociale, l'utilizzo delle mascherine, il lavaggio delle mani, ma soprattutto può avere delle implicazioni anche per le reinfezioni successive. Questo perché è vero che gli anticorpi sono diminuiti, tuttavia dobbiamo ricordarci che l'immunità non dipende solamente dalla presenza degli anticorpi, ma anche da tutto il sistema immunitario che verrà, se quando ci sarà il vaccino, verrà stimolato proprio dall'utilizzo di questo vaccino. Bene, per oggi è tutto. Come ogni giorno, anche oggi vi aspetto sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute per le nostre video interviste. Oggi, insieme al nostro esperto, ci occupiamo dei denti dei nostri bambini. Non mancate, vi aspetto! Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.